Buongiorno a tutti. Io ho stato in Italia 49 volte. Io parlo italiano come un bambino. Posso forse un gatto. Quindi per te, fortunata, fortunata. I'm going to speak in English. I've had fun being here. È stato molto bello essere qui. I met some of your people on the ship. Ho incontrato alcuni di voi sulla barca, sulla crociera. Some of the worship team. A parte del gruppo Lode. I met your pastor. I met your pastor Mirko on the ship. Ho incontrato il nostro pastore Mirko in crociera, sulla barca. I'm sorry for you. Mi dispiace per voi. His theology is a little. But no, we became very quickly good friends. And I invited myself to Bari. He only heard me three times. And I don't think he wanted me to come. But I paid him. No. I'm an American, evangelist. I'm 79 years old, kids. I'm still standing upright. Però sono ancora dritto, giù dritto. Married to a woman for 54 years. Sposato a una donna da 54 anni. My brother's been married 54 years. Anche mio fratello è sposato da 54 anni. To five different women. Ma a cinque donne diverse. I've had the same one. E io invece sono rimasto fedele ad un'unica. She doesn't like to travel. No, a lei non piace viaggiare. She's an intercessor. È un intercessore, mia moglie. So she says, have fun. E quindi mi ha detto, divertiti. And then she prays. E quindi lei prega. How many intercessors do we have in the room? Intercessors. Quanti di voi sono intercessori? Raise your hand. Sento di essere intercessori. Per alzata di mano. Be Pentecostals. Siate pentecostali, nel senso non siate timidi. Peter, raise your hand. Peter, alza la mano perché tu raise your hand. This man is an intercessor. Perché quest'uomo è un intercessore. Do you know what an intercessor is? Sapete che cos'è un intercessore? They talk to God for people. Parlano a Dio per gli uomini o per gli altri. Do you know what an evangelist is? E sapete invece che cos'è un evangelista? He talks to people for God. È colui che parla agli uomini per conto di Dio. So we need each other. Per questo abbiamo bisogno l'uno dell'altro. You pray for me. Tu prega per me. All right, I'll preach to these people. E io predicherò a queste persone. And if you're praying, they're in trouble. E se tu preghi, loro saranno in guai. Saranno guai. Praise the Lord, I've been funny for a minute. Ok, lodiamo il Signore perché sono stato divertente per un po'. One more thing. I was in a major conference once. A dire il vero, un'altra cosa. Una volta ero in una conferenza, in una grande conferenza. And the other speaker was from India. E l'altro insegnante o predicatore era indiano. And he wore the white, you know, all down, I don't know what you call it. E quindi portava, sai, la veste, una veste bianca fino alle caviglie. And he sat in his room all day and beat his tambura and sang to Jesus. Ed era nella sua stanza che suonava il suo tamburo e lodava il Signore tutto il giorno. And I was out laughing, eating food. E io invece ero in giro che ridevo e scherzavo e mangiavo. And when we were introduced at the conference, e quando ci hanno introdotto alla conferenza, they said of the guy from India, he's a very holy man. E hanno detto dell'uomo indiano, del fratello indiano, è un uomo santo. I got up to speak. E poi sono arrivato io. They said he's a very funny man. E hanno detto lui è un uomo molto divertente. Well, let's pray. Preghiamo allora. All right, Lord Jesus Christ. Signore Gesù, you know every person in this room. Tu conosci ogni persona in questa stanza. There's no one that hides from your eyes. Nessuno è nascosto ai tuoi occhi. The Spirit of God moves and searches every heart. perché il tuo spirito si muove e scruta ogni cuore. You know when we sit down and you know when we stand up. Tu sai quando noi ci sediamo e ci alziamo. You know what we're thinking. Tu sai cosa noi pensiamo. Not just with our minds, but with our hearts and our spirits. Non solo con le nostre menti, ma anche con il nostro spirito e cuore. It's my prayer, oh God. È la mia preghiera, Signore. That you speak to hearts today. Che tu possa parlare ai nostri cuori oggi. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. This message may have two values. Questo messaggio avrà due valori fondanti. If you haven't trusted Jesus as your Savior, se non hai accettato Cristo Gesù come tuo Salvatore, it should be helpful. Dovrebbe aiutarti. If you have been a Christian for a long time, se sei un credente da tanto tempo, you should be able to explain to people better what the gospel is about. Sarai in grado di spiegare ad altri meglio il Vangelo. There was a Chinese scholar that came to the United States. Una volta uno studioso cinese è venuto negli Stati Uniti. Now, Billy Graham wouldn't have done this. Ora Billy Graham avrebbe fatto questo. I think that's yours. That's yours, yeah. This is mine. Okay. Yeah. Just a moment. Giusto un attimo. Billy didn't have a throat problem. Billy Graham non aveva un problema di gola. Ah, he doesn't have a throat problem anymore. Soprattutto adesso non ce l'ha più. So he came to the United States. È venuto questo studioso cinese negli Stati Uniti. They were all very impressed with him. E tutti erano molto impressionati. Because he had read everything in philosophy. Perché aveva letto quasi tutto ciò che era stato scritto in filosofia. And he had read everything in theology. E ha letto tutto della teologia. And so he had read the Vedas, all of the Vedas, you know, the Sanskrit, the Hindu scriptures, all of the quindi ha, Vedas. Ha anche letto tutte le sacre scritture hindu. He had read the Quran. Ha letto il Corano. I think he read the Book of Mormon, I know. Forse ha anche letto il libro di Mormon. But someone gave him a New Testament. Ma ad un tratto qualcuno gli ha dato il Nuovo Testamento. They said to him, what do you think of the New Testament? E gli hanno chiesto, che cosa ne pensi del Nuovo Testamento? He said, it's the most incredible thing I've ever read. E disse, è la cosa più incredibile che io abbia mai letto. It's totally different than any other religious book. È totalmente diverso da tutti gli altri scritti religiosi. Well, they said, well, what was the most important thing you noticed? E gli hanno chiesto che cos'è la cosa più importante che hai notato. They thought he'd say, well, the virgin conception. Beh, sicuramente il concepimento da Maria Vergine. Oh, the resurrection. La risurrezione. Well, those are pretty important, wouldn't you say? Sono cose importanti, no? Non direste? How many believe in the virgin conception? Quanti di voi credono nel concepimento vergine? How many believe in the resurrection of Jesus? Quanti di voi credono nella risurrezione di Cristo? That's pretty phenomenal, isn't it? Sono cose fenomenali, no? Is that really true? Sono vere? Yeah, we know it's true. Certo che sappiamo che sono vere. But I'm not sure we believe and live like it's true. Ma non sono sicuro che viviamo come se queste cose fossero vere. It's life transforming. Perché trasformano la nostra vita. It changes everything you think about, everything you do, every decision you make. Cambia ogni decisione e cosa che scegli di fare. Every girl you date. Qualsiasi ragazza che sta insieme, con la quale stai insieme. Every car you buy. Qualsiasi macchina compri. Every job you take. Qualsiasi lavoro che accetti. The clothes you buy to wear. I vestiti che scegli di indossare. It's your destination. È il tuo destino. It's the real, real. It's the true, true. È la verità vera. He said, "This is what I found impressive." E questo disse è ciò che ho trovato interessantissimo. In Ephesians chapter 2. In Efesini al capitolo 2. Ephesians chapter 2 verses 1 and 2. Nei versi 1 e 2. It says this. Dice questo. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Dead. Dead. Anche voi eravate morti, morti, morti per le vostre colpe e i vostri peccati. You weren't asleep. Non eravate assopiti. You were dead. Eravate morti. You were separated from the life of God. Eravate separati dalla vita di Dio. By your sins and transgressions. Dai vostri peccati e le vostre trasgressioni. He said that's the first thing. Questa è la prima cosa che mi ha impressionato. And he says the other part of this is you follow the course of the world. E la seconda cosa che ha impressionato è il seguire l'andazzo di questo mondo. You were under the power of the kingdom of the world. Il fatto che siamo sotto la potenza del re di questo mondo. You're under the influence of the spirit who works disobedience. E sotto l'influenza dello spirito che provoca la disobbedienza. But he says the most amazing thing. Ma la cosa più interessante disse. That in verse 22. Che nel verso 22. God comes to live inside of you. Che Dio viene a dimorare, a vivere in noi. God lives inside of you. Che Dio vive in voi, in noi. No other religion makes that claim. Nessun'altra religione assume tale cosa. All other religions teach that you must work your way to God. Tutte le altre religioni insegnano che dobbiamo adoperarci per arrivare a Dio. All other religions teach that you'll never know if you ever do enough. E tutte le altre religioni ci dicono che non sapremo mai se abbiamo fatto abbastanza. If you're ever good enough. Se saremo mai in grado abbastanza. But the Bible says, ma la Bibbia dice, while I was still in my sins, Christ died for me. Quando io ero ancora peccatore, Cristo è morto per me. Not when I was good enough. Non quando ero buono abbastanza. Not when I qualified. Non quando mi sono qualificato buono. You want to know what the qualifications are to be a Christian? Sapete quali sono le qualifiche per essere un credente? You have to agree with God that you don't have the qualifications to be a Christian. E essere d'accordo con Dio che non hai le qualifiche per essere un cristiano. You have to call out to God and say, I know that I'll never get there on my own. E gridare a Dio e dire so per certo che non ce la farò mai ad arrivare lì. We have a false view about where God is and where man is at. Abbiamo una visione distorta di dove Dio è e dove noi siamo. The Jews had the same wrong view. E i giudei avevano la stessa visione distorta. Islam has the same wrong view. E anche l'Islam ha la stessa visione distorta. Catholicism has the same wrong view. E il cattolicesimo. They think that you can get to heaven on a bicycle. E loro credono che si arriva al cielo con una bicicletta. They think you might get to heaven in a rocket ship. O credono che arrivi con un razzo. You might just have enough good works that you can get there. E perché con abbastanza buone opere sono convinti si riesce ad arrivare. The problem is they don't know how holy God is. Ma il problema è che non sanno quanto santo He's Dio è. He's not your friend or your buddy. Lui non è il tuo amico o il tuo compagno di merende. He loves us. Ci ama. He wants us close to him. Ci vuole vicino a lui. But it's only the Holy Spirit that brings us near him. E però è solo lo Spirito Santo che ci avvicina a lui. It's only the blood of Christ that cleanses us so the Holy Spirit can come into the vessel and we have this treasure. È solo il sangue di Cristo Gesù che ci purifica e permette allo Spirito di dimorare in noi. We have this treasure in earthen vessels. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di argilla. That the excellency affinché l'eccellenza might be of God. Possa essere di Dio and not of us. E non nostra. And so when people see some good in you, e quindi quando le persone vedono qualcosa di buono in voi, all you gotta say is, tutto ciò che devi dire, it ain't me, baby. Devi dire non sono io, baby. If there's any good in me, it's what Jesus has done. Se c'è qualcosa di buono in me è grazie a ciò che Cristo ha fatto per me. Here's some good news. E questa è la buona notizia. All the bad stuff you got, tutte le cose che non vanno in te, it ain't gonna be in heaven. Non saranno lì nel cielo. It's gonna be gone. Saranno via. You'll be a new person in heaven, fresh. Sarai una nuova creatura, fresca. But even now, if any man be in Christ, ma anche adesso, se chiunque uomo è in Cristo, he is a new creation. È una nuova creatura. The old things, they are gone. Le cose vecchie sono passate. The new has come. Il nuovo è qui. And the new is coming. E il nuovo sta avvenendo. You have been justified by Christ. Siete stati giustificati in Cristo. You're being sanctified by Christ. E siete santificati da Cristo. You will be glorified. E sarete glorificati. He saves you trinitarianly. Say that again. Trinitarianly. Nella Trinità. He saves you three ways. Ti salva in tre modi. He saves you from your past. Ti salva dal passato. He saves you in your present. Ti salva nel tuo presente. And he will save you in your future. E ti salverà nel tuo futuro. He has saved your body on the cross. Ha salvato il tuo corpo sulla croce. He is saving your soul by the power of the Holy Ghost. Ti sta salvando il tuo spirito attraverso la potenza dello Spirito. He has made your spirit right. E ha reso il tuo spirito giusto. He has saved you spirit, soul, and he will come for your body. E lui ha salvato il tuo spirito, la tua anima, e sta tornando per il tuo corpo. Now you all go home and try to come up with something like that. Ora tornate a casa e cercate di inventare una cosa come questa. That's beyond human brilliance. E va al di là di ogni intelligenza umana, conoscenza umana. How many have ever heard the name Richard Dawkins? Quanti di voi hanno sentito il nome di Richard Dawkins? Dawkins. No? No one. Yeah, that's good. Yeah. He wrote a book called The God Delusion. E lui ha scritto tempo fa la disillusione di Dio. Il titolo era La disillusione di Dio. He teaches biology. E lui insegnava biologia at Oxford University. All'università di Oxford. When I was in Italy about 5 years ago, quando ero qui 5 anni fa in Italia, everybody was walking around with his book. Tutti quanti andavano in giro con il suo libro. The God Delusion. La disillusione di Dio. He's the most important atheist in the world right now. È il più importante ateo al mondo ad oggi. But he has a friend that also teaches down the hall at Oxford. Ma anche un amico, un altro insegnante che insegna nella classe successiva alla sua. Dr. John Lennox. Si chiama Dr. John Lennox. He's a mathematician. È un matematico. He teaches, he's a scientist. È uno scienziato. And he teaches physics. E insegna anche fisica. And he is a powerful Christian. Ed è un potente credente cristiano. He's one of the most powerful Christians in the world. È il più potente cristiano, fra i più potenti cristiani nel mondo. And he's a big fat guy. Ed è un uomo in carne. From Ireland. È un uomo irlandese. And he looks like he should work as a butcher. Sembra che dovrebbe fare il, vabbè, non sto imitando l'accento, il macellaio. Yeah. Macellaio. I was going to help you there, but yeah. So Richard Dawkins in debate says to John Lennox. In un dibattito avuto, John Lennox dice all'altro ateo. How many speak English? Quanti di voi parlano inglese? Well, how many know an Irish accent? An Irish accent. Quanti di voi conoscono la differenza fra l'accento irlandese? This is really funny if you could hear the accent. Quello inglese, no? Se riuscite a distinguere, fa ridere. It's like for me going to Sicily. È come per me andare in Sicilia, no? Whatever English I know, I mean whatever Italian I know, andato. Se vado in Sicilia, il poco italiano che ho non conta nulla, no? È andato. So he says to John Lennox. E quindi dice a John Lennox. Hey, John. Hey, John. The problem with Christianity is it can't be tested. Il problema col cristianesimo è che non può essere provato. How many got that, the accent? Quanti di voi hanno distinto l'accento? And so John Lennox turns to Richard and says, "Oh, Richard." E quindi poi John Lennox dice, "Oh, Richard." "Hey, Richard, that's not so." No, non è così. It's been tested all over the world. È stato testato in tutto il mondo. It's been tested for 2 millennia. È stato testato provato per più di 2000 anni. It's been tested in prisons. È stato provato nelle prigioni. It's been tested in every nation on the planet. È stato testato o provato in ogni nazione oh, del mondo. John. John. I mean, oh, Richard. Oh, Richard. Sorry, the other guy. L'altro. He says, all over the world they'll all say the same thing. In tutto il mondo stanno dicendo la stessa cosa. Once I was a sinner. Una volta io ero un peccatore. Once I didn't know what I would do with my future when I die. Una volta non sapevo quello che mi sarebbe successo dopo la morte. But I trusted Jesus Christ. Ma ho confidato in Cristo Gesù. My sins were taken away. I miei peccati sono stati tolti. Immediately I felt freedom. E immediatamente ho sentito libertà. Immediately I felt the assurance of salvation. Immediatamente ho ricevuto la certezza della salvezza. Immediately I knew that if I died I'd be able to be with Christ. Immediatamente ho saputo che se dovessi morire sarei stato con Cristo. Oh Richard. Oh Richard. It has been tested. È stato testato. Richard. Richard. What is your hope? Qual è la tua speranza? What do you put your hope in, Richard? In che cosa metti la tua speranza? O riponi la tua speranza, Richard? The point is, il punto è, is the knowledge you have is universal. It's universal. La conoscenza che tu hai è universale. How many have ever heard of the Lamb's Book of Life? Quanti di voi hanno sentito del libro dell'agnello? How many know that their names are written in the Lamb's Book of Life? Quanti di voi sanno che i nomi sono scritti nel libro dell'agnello della vita? This is not a trick question. Raise your hand. Non è una domanda trabocchetto. Alzate la mano. C'è scritto in Apocalisse. Ho aggiunto io. Are you Pentecostals or what? Siete pentecostali o cosa? How many know that they've been washed in the blood of Jesus? Quanti di voi sanno di essere stati lavati nel sangue dell'agnello? How many know that they've experienced the grace of God? Quanti di voi avete sperimentato la grazia di Dio? How many know that once they were sinners and now they're saved by the blood of Christ? Quanti di voi sanno che eravate peccatori e adesso siete salvati attraverso il sangue di Cristo? I could say this to a room with people from all over the world. Potrei dire queste cose a gente di tutto il mondo. From Thailand and China and Africa and Burundi and Nigeria. And I can say it to people from Philadelphia. Dalla Thailandia all'Africa alle persone di Filadelfia. And I would say, do you know that you're going to heaven when you die? And they'll say, amen. E gli potrei chiedere, sai che se muori andrai in paradiso? E loro diranno, amen. Because it's not given to you by man. Perché non è dato dall'uomo. You're not a Jehovah's Witness. Non sei un testimone di Geova. You're not a Mormon. Non sei un mormone. The Spirit of God has told you the truth. Lo Spirito di Dio stesso ti ha testimoniato della verità. Do you have a university in Bari? Avete un'università in Bari? Are they pretty smart people there? Ci sono persone intelligenti nell'università di Bari? Now pretend you're sociology 101. I don't know what you call it. First class of sociology. Fate finta che siamo in classe in sociologia, no, all'esame di sociologia per la prima volta. So tomorrow I go to the University of Bari and I say to them what I just said to you. E facciamo che domani vado al gruppo che sta studiando sociologia e dico le stesse cose che ho raccontato a voi. I can go to the Vaticanus, the Università Vaticanus in Roma. I have. Potrei andare all'Università del Vaticano, ci sono stato. And I can say what I just said to you. E potrei dire la stessa cosa che ho appena detto a voi. And they don't know what I'm talking about. E non saprebbero di cosa sto parlando. You get it? Do you get it? Do you understand it? Si capisce, si comprende? This is not taught of man, it's a download from heaven. Non è una cosa insegnata da uomo, ma è un download dal cielo. Now I've got to hurry because this is only 40 minutes. Ora devo andare un po' più in fretta perché ci sono solo 40, ho solo 40 minuti. If you're a Baptist, you'll have to go have your lunch and then come back. Se sei un battista, devi andare al pranzo e torna perché sarò ancora qui. But I have to tell you, I've got a Jewish friend for 55 years. Ma devo 60 years. Vi racconto che ho un amico giudeo da 60 anni ormai. He was my closest friend in university, Mark Feinberg. Mark Feinberg. Questo Mark era il mio amico migliore all'università. When I found Jesus, I called my parents first. E quando ho incontrato Gesù, ho accettato Gesù, le prime persone che ho chiamato erano i miei genitori. As we say in English, they were over the moon. E come diciamo in inglese, erano al di sopra della luna, cioè molto felici. It's a song. Al settimo cielo. È una canzone però questa della luna. So the next call I made was to San Francisco. Ma la seconda chiamata che ho fatto era a San Francisco. This was 50 years ago. 50 anni fa. And I got hold of Mark Feinberg. E ho chiamato questo mio amico Mark Feinberg. And I wanted to tell Mark about his Messiah. E volevo raccontare a Mark del suo Messia. Mark is wonderful. Mark è una persona fantastica. Sweet guy. Una persona molto dolce. When he was young, he could do music better than Joel. Quando era giovane era più bravo di Joel. And he was a lot easier to travel with. Ed era molto più facile viaggiare con lui anche. Joel spends too much time in the washroom. Joel spende troppo tempo in bagno. Yes, you know. I said, Mark, hey, quiet. No hecklers. No hecklers. Joel ha detto, non dirò niente riguardo a te. Oh, that's good. Yeah, that's good. All right. Forget about it. I won't get electrocuted. So I told Mark about Jesus. E quindi ho raccontato a Mark di Gesù. You know, I lost track of Mark for 50 years. E non avevo sentito da Mark per 50 anni. And finally, you know, I'm an artist. How many? I think you were told I'm an artist. Penso che sappiate che sono un artista, no? And I'm on the internet. I'm pretty well known. E sull'internet sono abbastanza conosciuto anche. And I searched for him. E ho fatto una ricerca su di lui. And he searched for me for 50 years. E lui ha ricercato me, perciò ci siamo seguiti via web per 50 anni. And one day, about 5 years ago. E un giorno, cinque anni fa, there was an email. Mi è arrivata una mail. Mark Feinberg. Are you Tony Hedrick from Caney, Kansas? E mi ha chiesto, sei tu Tony del Kansas? I said, Mark. E lui ha risposto così. I said, Jeannie, that's my wife. That's Mark. E ho detto, Jeannie, la moglie. Questo è Mark, mi ha mandato una mail. I typed him right back. E l'ho risposto immediatamente. Mark, where are you? E gli ho detto, Mark, dove sei? Dove ti trovi adesso? He says, I'm in Mexico. E mi dice, io sono in Messico. I said, where are you in Mexico? E gli ho chiesto, perché? Che ci fai in Messico? He said, I'm in San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. Don't worry about it. Okay. I said, guess what, Mark? E gli ho detto, indovina un po', Mark. And this is true. E questa è una storia vera. I have been invited to speak. Ero stato invitato. 6 months before, invited to speak in San Miguel de Allende. 6 mesi prima ero stato invitato nella stessa città in San Miguel dove si trovava Mark. And I said, Mark, guess what? I have an airplane ticket right now in my desk for San Miguel de Allende. E gli ho detto, Mark, ho un biglietto qui d'aereo per San Miguel. We made arrangements to meet in a coffee shop. E quindi ci siamo incontrati a un bar. I wouldn't recognize Mark anymore. He doesn't have any hair. Non l'avrei riconosciuto, comunque non l'ho riconosciuto perché non aveva più capelli. He's not cool anymore. Non è molto molto interessante più. Neither am I. Neanch'io. Joel is cool. Joel invece è cool e figo. So I met him in a coffee shop. E quindi ci siamo incontrati in un bar. We talked, we hugged, we blah blah blah. You know. Ci siamo abbracciati, abbiamo parlato. And I was meeting with a bunch of Christian men from all over Mexico and the United States. E lì ero per un incontro fra credenti messicani e statunitensi. Oh, I thought, what a perfect opportunity. E mi son detto, un'opportunità eccezionale. Mark, would you like to come and meet with these guys? E gli ho detto, Mark, vorresti venire incontrarci con noi? These guys are not like you. Ora, quelle persone non sono come voi. They're not very religious. Non sono molto religiosi. They're just Christians. Sono solo credenti. I'm making a joke. Vi sto prendendo in giro. They're a lot of fun. Sono molto divertenti loro. And I thought, this is perfect for Mark. Quindi questo mi sono detto, è perfetto per Mark. And he went to this meeting. E quindi è venuto a questo incontro. One guy found out he was a Jew. E una persona ha scoperto che era giudeo. Got him against the wall. E l'ha stretto alle corde. And preached to him for 3 hours non-stop. E gli ha predicato per 3 ore senza fermarsi. Mark came out like this. E Mark è uscito un po' intondito. He says, that guy talked to me for 3 hours and I didn't understand anything he said. E mi ha detto, quella persona mi ha parlato per 3 ore e non ci ho capito niente. But he liked the people. ma gli è piaciuta la gente che ha incontrato. Relax, pastor, I'm almost finished. Ha detto, stai tranquillo, pastore, ho quasi finito. I'm editing. Sto cambiando così. So I said, well, I said, Mark, let's stay in touch. Oh, yeah, bro. Oh, I love you, man. I love you, man. E quindi gli ho detto, Mark, sì, sì, rimaniamo in contatto. Lui ha detto, sì, sì, ti voglio bene. Mark's still a hippie. Mark è ancora un hippie, diciamo, che fuma. So he has COPD. Quindi COPD, ha, lung deficiency. E quindi ha un problema ai polmoni. So I chat with him on the internet on the phone and the internet and talk about Jesus, Yeshua. E quindi ci siamo tenuti in contatto via internet, via telefono, e ho parlato di Gesù, di Gesù, di Gesù. Basta. E poi lui, basta. Basta. Io sono una ebrea, non possibile per me to become a Christian. E diventare un credente. Non è possibile per me diventare un credente, sono ebreo. But I still, you know, you can't help it, can you? I continue to witness to him. Ma era più forte di me, e quindi ho continuato a testimoniare. 30,000 words after he told me to stop. 30,000 words. Ho speso 30,000 parole dopo che lui ha detto basta, continuando. He said to me, he said, okay. He says, I have to move to Baltimore. E quindi ha detto, ok, mi devo trasferire a Baltimora. So, great. E ho detto, fantastico. Going to Baltimore is like going to hell anyway. So, go to Baltimore. Andare a Baltimore è come andare all'inferno comunque. Quindi vai pure a Baltimore. So I'll go see him in Baltimore. E quindi lo vado a trovare in Baltimora. Drove to Baltimore. E arrivo a Baltimora in macchina. I stayed 3 days. E abbiamo speso 3 giorni insieme. He can hardly walk now. E a malapena riesce a camminare ormai. So everywhere I've got to be taking him to the, helping him get into the car, get out of the car. E quindi ovunque siamo andati, volevo aiutarlo a entrare e uscire dalla macchina. So I'm telling him about Jesus. E gli racconto di Gesù. I go back home to my wife and say, I voglio. E torno da casa da mia moglie dopo questi 3 giorni e disperato. I don't think I'll ever reach this guy. E gli ho detto, non credo che questo uomo riuscirò mai a raggiungerlo col Vangelo. I love him, but I think we'll just have to pray for him. Lo amo, però penso che abbiamo fatto di tutto, adesso dobbiamo solo pregare per lui. We begin to pray for Mark. E quindi abbiamo iniziato a pregare per Mark. Every morning and every evening we pray for Mark. Ogni mattina e ogni sera abbiamo pregato per Mark. A year went by. Un anno è passato. Nothing. Niente. One morning I get an email. E una mattina mi arriva un'altra mail. A text message. Addirittura un messaggio. He says, Tony, you gotta call me, man. E dice, Tony, mi devi chiamare. Genie, Mark wants me to call him. He seems urgent. I wonder he's sick. Io dico, ma sarà malato se vuole che lo chiami. I call Mark on the phone. E quindi lo chiamo. He says, Tony. E dice, Tony. You gotta help me, man. Devi aiutarmi, amico. I woke up this morning and I can't stop thinking about Jesus. Mi sono svegliato questa mattina e non riesco a smettere di pensare di Gesù. And I'm crying. E sto piangendo. And I don't know why I'm crying. E non so perché sto piangendo. And I don't know why I've been watching The Chosen on television. E non so perché sto continuando a guardare The Chosen in televisione. I just love this Jesus. E amo questo Gesù. And I don't know why they killed him. E non so perché l'abbiano ammazzato. That wasn't right. Non era giusto. Non he è never giusto. Did anything. Non ha fatto niente di sbagliato. Guess what? Indovinate un po'. He found the Lord. Ha incontrato il Signore. So he says, you've got to explain to me what's going on in my life. E quindi mi ha detto, mi devi spiegare che cosa avviene nella mia vita. Well, Mark, you're being born again. E gli ho detto, beh, Mark, stai nascendo di nuovo. I don't even know what that is. E non so che cosa significa, ha risposto Mark. He lives in a Jewish community. Sorry. A Jewish community. E lui fa parte di una comunità ebraica. The guy who does the gardening is a black guy. E la persona invece che fa il giardinaggio in questo quartiere è una persona di colore. He says, I didn't know. I knew he wasn't a Jew. Io mi dicevo, sapevo che non era un giudeo. He could be, but I didn't think he was. Poteva esserlo, ma non pensavo lo fosse. So I went out and I said, "Are you a Christian?" E gli ho chiesto: sei un cristiano? He says, it's really hot today. È molto caldo oggi. But I'm going to pray that Jesus will help you. E gli ho detto: però pregherò che Gesù ti aiuti. Do you go to church anywhere? Vai in chiesa per caso? Black guy said, yeah, man, I go to church. I go to church. E l'uomo di colore ha risposto: sì, sì, io ci vado in chiesa. It's a black church. È una chiesa di persone di colore. Siamo tutti di colore. You want to go to church with me? Vuoi venire in chiesa con me? So he goes to a black church. E quindi va a una chiesa di maggioranza di persone di colore. So he hears, people get ready. There's a train coming. Yeah, I'm not gonna sing. You don't need no ticket. You just get on board. People get ready. There's a train coming. All you gotta do is just praise the Lord. He says, I don't feel like I'm not afraid anymore. E questo Mark amico dice: sento di non aver più paura. I'm not afraid of being sick. Non ho più paura di essere malato. I'm not afraid of dying. Non ho più paura di morire. The Bible says this. La Bibbia dice questo. In 1 John chapter 5. In primo Giovanni al capitolo 5. It says these things are written. C'è scritto, queste cose sono scritte, ovvio, ho scritto queste cose that you may know that you have eternal life. Affinché possiate conoscere o sapere che avete vita eterna. And in John chapter 3, e in Giovanni al capitolo 3, says kind of the same thing, più o meno dice la stessa cosa, that you may know that you have eternal life, affinché voi sappiate che avete vita eterna, and this life is in his son. E questa vita eterna è nel Figlio di Dio. What happened to Mark? Che cosa è successo a Mark, l'amico mio? He suddenly knew that he had eternal life. E ad un tratto sapeva di avere la vita eterna. These things are written that you may know. Queste cose sono scritte affinché voi possiate sapere. That you have. Che avete. Eternal life. La vita eterna. If the Spirit of God, Romans 8 says, dwelleth not in you, there's even the Spirit of Christ. If the Spirit of God, even the Spirit of Christ. E in Romani 8 c'è scritto che se lo Spirito di Cristo non dimora in voi, does not dwell in you, non dimora in voi appunto, you are none of his. Non siete suoi. And to be born again, you must know that you have eternal life. It's absolutely imperative. Per essere nati di nuovo dovete sapere con certezza di essere nati di nuovo. If you don't know that you're a child of God, you're not. Se non sai di essere un figlio di Dio, non sei un figlio di Dio. His spirit bears witness with our spirit that we are the children of God. Perché il suo spirito testimonia al nostro spirito che siamo figli. If you don't have assurance, you're not a Christian. Se questa mattina non hai questa certezza, non sei un credente. I have no plan B. Non c'è nessun piano B. My confidence is in Jesus alone. La mia confidenza, la mia certezza è in Cristo soltanto. Jesus plus nothing. Jesus plus nothing. Gesù più nient'altro. Just as I am. Così come sono. Without one defense. Senza nessuna difesa. Christ plus nothing. Cristo più nient'altro. The last part of the story. L'ultima parte della storia. About 3 weeks later, he calls me. Dopo tre settimane mi richiama Mark. He says, hey, Tony, I want it. He's still crying. Piange ancora, no, al telefono. He says, Tony, I want to get baptized. Tony, voglio battezzarmi, mi dice. Do you know anybody who can baptize me in Baltimore? Conosci qualcuno che mi potrebbe battezzare qui in Baltimora? No, but I'll find somebody. E ho detto, no, però lo trovo qualcuno, non ti preoccupare. No, but I want you to baptize me. E poi mi dice, no, ma io voglio che tu mi battezzi. You're my closest friend. I want you to baptize. Tu sei il mio amico migliore, voglio che tu mi battezzi. I said, Mark, I don't want to go to Baltimore. E gli ho detto, Mark, non ci voglio venire a Baltimore. He says, I said, Mark, guess what, though? I'm going through Hagerstown. Gli ho detto, Mark, però non ti preoccupare, sto passando per Hagerstown. Come on, gang, come on, come salite, on. Salite, venite. Get the show on the road, come on, get out. Iniziamo questo show, salite. Get the piano going. Iniziate a suonare il piano. I know how this works. So come funziona. And I said, he said, I want to get baptized. I said, let me see what I can do. E gli ho detto, vediamo cosa posso fare per battezzare. It's an hour from Baltimore to this town. È un'ora da Baltimore a questa città per cui passavo. I said, you go to that hotel and I'll meet you there on Tuesday night. E gli ho detto, vai a questo hotel martedì sera e ci incontriamo lì. And we'll go to the lake. E andiamo al lago. And I'll baptize you in that lake. E io ti battezzo nel lago. I found out where it was. E ho scoperto dove fosse. They had a small beach. E c'era una piccola spiaggia. But I did not know that there'd be 1,000 people on the beach. Ma non sapevo che ci sarebbero state 1,000 persone su quella spiaggia. I didn't know there'd be 500 cars. Non sapevo che ci sarebbero state 500 macchine parcheggiate. No place to park. Non c'era parcheggio da nessuna parte. But my wife and I stuffed Mark in the car. Ma io e mia moglie abbiamo preso Mark, l'abbiamo messo in macchina. Now you have to understand that when I arrived at the hotel, he was already in his bathing suit. Ora, quando arriva all'hotel, era già in costume, Mark. He was in the waiting room in his bathing suit. Era lì nella hall con il suo costume da bagno, già pronto. God wants you to experience amazing things. E Dio vuole che tu sperimenti cose meravigliose. He wants you to experience people saving people without the hand of the Lord is not shortened that it cannot save. Dio vuole vedere persone salvate attraverso di te perché la sua mano non è troppo corta per salvare. So I get him down to the beach. E quindi andiamo alla spiaggia, arriviamo in spiaggia. I can't park the car. Non riesco a parcheggiare la macchina. But Jesus says, try again. E il Signore mi dice, provaci di nuovo. I drive around to an area that says no vehicular admittance, no car admittance. E poi c'è un cartello per la strada che stavo percorrendo che diceva divieto di accesso, non potevo entrare con la macchina. Mark's an invalid. I said to my wife, Mark is an invalid. E ho detto a mia moglie, Mark è un invalido. We have a right to go onto the beach. E quindi abbiamo un diritto di accedere alla spiaggia. So I drove onto the beach where these Mexicans were eating tacos. E quindi ho iniziato a guidare sulla spiaggia con i messicani che lì mangiavano il loro taco. And out of nowhere a lady showed up. E una donna tutta ad un tratto si palesa. She said, "May I help you?" to my wife. E dice, "Vi posso aiutare?" And she helped my wife get Mark down to the water. E quindi ha aiutato mia moglie ad accompagnare Mark giù all'acqua. Where all the children were. Dove erano tutti i bambini. I only saw children splashing water. E vedevo bambini che si schizzavano l'acqua. So I get out of the car. E quindi esco dalla macchina. The lady says to my wife. E la signora dice a mia moglie. My husband and I got baptized 25 years ago. E dice, io e mio marito ci siamo battezzati 25 anni fa. Now he has multiple sclerosis. Anche il marito adesso di questa signora ha la sclerosi multipla. So I'll help you. E quindi ti aiuto. Finally we get him in the water and I get finalmente entriamo in acqua. And I'm trying to help him get deeper. E lo aiuto ad arrivare nell'acqua un po' più profonda. He's a tall Jew. È un giudeo molto alto. He's 78 years old. 78 anni. And I get him out in the water up to about here. E arriviamo nell'acqua fino ai fianchi. And I'm thinking if he bows down I can't get him up, he can't get up. Quindi ho detto se si piega non lo riesco a tirare più su. And if I immerse him, e se lo immergo I can't get him up. Non lo riesco a rialzare. And all these kids aren't able to help me. E questi bambini sicuramente non riusciranno ad aiutarmi. And suddenly I see a black guy. E quindi poi c'è un'altra persona di colore. I'm telling you, I don't know where he came from, honestly. Non so da dove sia venuto. I don't know where he went. E non so dove è andato dopo di ciò. Are you baptized? E gli ho chiesto, sei battezzato? Because you know any person can baptize anybody if they've been baptized. Perché sapete, chiunque battezzato può battezzare qualcun altro. You don't need Mirko, you can baptize them. No, non c'è bisogno di Mirko. It's better if you have the pastor. Ovviamente è meglio se c'è il pastore. But we have the authority to baptize. Ma certo, abbiamo l'autorità anche di so battezzare. So I said to the black guy, "Have you ever baptized anybody?" E ho chiesto a questa persona di colore, "Hai mai battezzato qualcuno?" No, he said, "But I've seen it." ha detto no, però l'ho visto fare. I said I can't get this guy out of the water. I need your help. Will you help me? Io ho detto vedi che non lo riesco a tirare su se lo immergo. Mi aiuti? This guy just gave his life to Jesus and I'm going to baptize him. Questa persona ha appena dato la propria vita a Gesù e voglio battezzarlo. You can't believe how excited this guy was. E non potete immaginare quanto felice fosse questa persona. He got on that side, I got on that side. E quindi ci siamo messi a entrambi i lati del mio amico Mark. And I baptized him. E l'abbiamo battezzato. Before I did, I said to the man, "What is your name?" The black guy. E ho chiesto all'altra persona, "Qual è il tuo nome? Come ti chiami?" All'amico di colore. You'll like this. E vi piacerà questo. Jabil. Jabil si chiamava. I said, "Are you Muslim?" E gli ho chiesto, "Sei un musulmano?" Yeah. E lui ha detto sì. I said, "Are you a practicing Muslim?" Sei un musulmano praticante? Not so much. E ha detto, non proprio. So a Muslim. E quindi un musulmano. And a Christian. E un cristiano. Baptized a Jew. Hanno battezzato un giudeo. And the Muslim walks away thrilled. E il musulmano si è allontanato entusiasta. Rise with me for a minute. Alzatevi in piedi insieme a me. I'm going to say the worst thing I can say to you right now. E ora vi dirò la cosa peggiore che possa mai dire a una persona. And you listen very carefully. E ascoltatemi attentamente. You've heard me speak now for 4 hours and 16 minutes. Ora mi avete sentito predicare per 4 ore e 16 minuti. Do you have the witness of the Spirit? Avete in voi la testimonianza dello Spirito? Do you know that you know that you know that you know that you know that you're a child of God? Sai di sapere, di sapere, di sapere, di sapere che sei un figlio di Dio? It's the first thing you think about is I'm a Christian. That's your identity. È la tua prima identità l'essere cristiano. They say 35% of the people in churches like this. Si dice che il 35% delle persone in chiese come la nostra are not Christians at all. Non sono credenti affatto. They sing the songs. Cantano le canzoni. They know John 3:16. Sanno magari Giovanni 3:16. But they don't know the Lord. Ma non conoscono Dio. I'm going to pray for you. E io pregherò per voi. If I've spoken a message this morning that has spoken to your heart. Se questo messaggio ha parlato al tuo cuore questa mattina. Would you just raise your hand and say God spoke to me today? Puoi alzare la tua mano e dire sì, il Signore mi ha parlato questa mattina. Don't be afraid to do that. Non essere timido, non aver paura di farlo. Jesus hung on a cross naked. Don't be afraid to do that. È stato appeso alla croce nudo, non aver paura. God spoke to me today. Sì, il Signore mi ha parlato oggi. I want to know him better. Voglio conoscerlo meglio. I want to love Jesus more. Voglio amare Gesù di più. Lord Jesus Christ. Signore Gesù. Thank you for today. Ti ringrazio per oggi. Thank you for this lighthouse and witness for Christ in this city. Ti ringrazio per questa luce, questa chiesa che è una luce per questa città. Do a great work through these people. Compi un'opera meravigliosa attraverso queste persone. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. Amen. Thank you. Amen. Grazie.